Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Buongiorno a voi e benvenuti. È sempre un piacere accomodarsi in questa casa e di fianco a me il mio coinquilino preferito, Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora Alberto, partiamo subito dalla lettera che dà un po' lo spunto per la nostra trasmissione, poi la commenteremo come sempre come tanti ospiti. Con Pietro le abbiamo provate tutte, ripetizioni, ore e ore a presidiare la sua stanza perché lui studiasse. Ci siamo seduti al tavolo con lui per aiutarlo a fare i compiti. Abbiamo urlato, dato castighi. Niente ha funzionato. Quest'anno scolastico è stato l'ennesimo disastro e credo che dopo la seconda bocciatura consecutiva io e mia moglie dobbiamo rassegnarci all'idea che nostro figlio, da grande, non farà un lavoro come quello di sua mamma e suo papà, entrambi laureati e specializzati. Pietro ha uno straordinario spirito pratico, sa mettere mani su motori e impianti elettrici, anche se non ha alcuna dimestichezza con pagine stampate e numeri. Quando va in campagna dal nonno, risorge all'idea di poter guidare un trattore nei campi. Insomma, ci domandiamo se con lui abbiamo sbagliato tutto. Forse Pietro ha bisogno di un'educazione diversa da quella impartita a scuola. Ma come mai in casa nostra è cresciuto un figlio così diverso da noi genitori e da come noi ce lo saremmo aspettati? Alberto, viene da chiedersi, giustamente il papà dice, forse abbiamo sbagliato, forse questo ragazzino vuole fare altro. Un figlio diverso da come i genitori se lo aspettano e probabilmente un figlio che sta affrontando una difficoltà che anche molti genitori all'ascolto proprio in queste settimane devono toccare con mano. Qua abbiamo però la doppia bocciatura, non la singola bocciatura, un indirizzo scolastico che forse non ha funzionato in nessun modo, un figlio che è bravissimo con le mani, con tutto ciò che è pratico e concreto e sembra lontano anni luce dal mondo intellettuale, dal mondo dei pensieri, dello studio dei suoi genitori entrambi laureati. Cos'è successo? L'educazione è fallita per questo ragazzo? Forse c'è un'altra educazione possibile? Lo scopriremo? Lo scopriremo, come si dice, strada facendo. No, lo scopriamo subito perché in linea con noi è tornata a trovarci, per me è un grandissimo piacere, il professor Duccio Demetrio. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e a voi, per me è anche un grande piacere. Professore, ricordo ai nostri ascoltatori che il professor Demetrio insegna filosofia dell'educazione all'Università degli Studi di Milano Bicocca ed è direttore della rivista Adultità, ma ha scritto un libro che Alberto si è divorato e che io sono quasi arrivata alla fine, lo sto leggendo, sto metabolizzando e che ho trovato molto interessante, L'educazione non è finita. Il sottotitolo mi piace molto, professor Demetrio, Idee per difenderla. Sì, l'educazione non è finita perché l'educazione è dentro di noi, se noi esistiamo vuol dire che qualcosa è accaduto, magari non ci piace questa educazione, ma l'abbiamo ricevuta. La lettera che prima è stata letta così accurata, così problematica, lo testimonia, ma non è, ecco, che il giovane Pietro sia da considerarsi un fallito. Ha probabilmente bisogno di qualcuno che riconosca in lui altre fonti dell'educazione, che forse non sono proprio le fonti che i suoi genitori si auguravano. C'è tantissimo già in questa lettera rispetto alla possibilità di intravedere, ce ne sono anche di peggiori di lettere direi di questa, di intravedere dei talenti, perché è inequivocabile questo spirito pratico, questo guidare un trattore nei campi, questa esigenza appunto di un'educazione diversa che purtroppo le aspettative di noi genitori non sempre riescono a vedere rispecchiate nei propri figli, ma educazione è anche riuscire a capire la differenza tra gli esseri umani, la differenza persino e per fortuna anche con i nostri figli. E quindi c'è una vocazione in Pietro, una vocazione che va, a mio parere, raccolta, va indirizzata, tenendo conto, come dico anche nel mio libro, che questo è un motivo di speranza. Comunque l'educazione non finisce mai, non può finire, perché Pietro diventerà grande, potranno esserci altri eventi che lo condurranno anche, oggi queste possibilità esistono, al desiderio di tornare a scuola. Certo non sarà più la scuola della sua adolescenza, ma potranno essere altri itinerari di lavoro, di pensiero, di apprendimento. Quindi mettere al centro oggi l'educazione e ritenere che non sia finita significa porsi, ecco, qualche domanda diversa dalle usuali. E in primo luogo domandarsi quando noi impariamo e impariamo desiderando di farlo. Ecco, questo è il punto cruciale. Chiunque ha una sua tensione, una sua disponibilità all'apprendimento, si tratta di cogliere questi indizi e queste possibilità che non sempre, ecco, sono convergenti rispetto alle aspettative di altri. Professore, Pietro per me è un adolescente davvero un po' fuori dal comune rispetto agli adolescenti che ci sono nelle nostre scuole superiori. Ha grandissima dimestichezza con molte attività pratiche, sembra lontano anni luce da quell'educazione delle 3I, impresa, internet, inglese, e sembra essere invece uno molto molto concreto. Un tempo l'educazione era anche questo, cioè si faceva in qualche modo di una professione l'educazione, ma contemporaneamente si imparava un mestiere, si facevano andare le mani anche a scuola, nel senso proprio pratico e concreto. E ora l'idea dell'educazione anche nella mente dei genitori sembra qualcosa di molto tecnico, astratto. Bisogna imparare una disciplina sportiva, bisogna imparare l'inglese, bisogna saper lavorare su internet. Sembra che davvero un ragazzo come Pietro sia un ragazzo, non dico maleducato, ma diseducato, e quindi non ce la fa a stare dentro un percorso scolastico tradizionale. Ecco, come mai? Non per questo Pietro non ha una sua vocazione educativa, come abbiamo detto prima, perché questo suo bisogno di stabilire un rapporto con la concretezza è quanto mai importante e significativo per la sua età. Ci sarebbe da preoccuparsi, come dicevamo, se non ci fosse assolutamente alcun desiderio di imparare, di apprendere. Allora dobbiamo chiederci se non sia la scuola, come purtroppo spesso lamentiamo e vediamo, ad essere lontana non solo da Pietro, anche da coloro i quali vanno bene a scuola. Ecco, questo vorrei sottolinearlo. Di solito noi prendiamo in considerazione i casi come Pietro o altri casi ancora, ma ci sono anche i bravi a scuola che forse andrebbero aiutati e stimolati finalmente, non dico per forza, eguagliare le gesta che non sono molto apprezzate al momento di Pietro, ma che andrebbero aiutati a ristabilire un rapporto con l'esperienza, perché noi apprendiamo dall'esperienza. Dall'esperienza in certi casi anche teorica, anche concettuale. Per i greci la parola teorein, a differenza di quanto crediamo noi, voleva dire proprio fare, cioè fare e contemporaneamente pensare. Allora riuscire a trovare delle occasioni, delle strategie che purtroppo a scuola non sempre si riesce a ottenere, delle strategie che combinino il saper fare con il desiderio di conoscere, potrebbero queste soluzioni diverse portarci non solo a Pietro e a valorizzarlo, ecco, ma a valorizzare anche coloro i quali vanno fin troppo bene a scuola. Lo so che confortano i genitori, però ma chiediamoci anche cosa succederà talvolta, come spesso accade, a tantissimi primi della classe che usciti dalla scuola si trovano completamente spiazzati, sì. Provveduti. Sì. Professor Demetrio, una domanda molto concreta. Se lei fosse il papà di Pietro, Pietro insomma è un ragazzino, è già andato avanti nel suo percorso e si vede che ha bisogno d'altro, lei concretamente che cosa farebbe? Concretamente io asseconderei innanzitutto i desideri di Pietro e apprezzerei quello che va facendo. E poi chi vi parla è un professore universitario, ho avuto anch'io problemi come Pietro, ecco, forse non mi interessavano molto i trattori, ma avevo altre passioni che mi allontanavano parecchio dalle sufficienze scolastiche. Fermiamoci qui. Veramente? Glielo assicuro. Professor Demetrio, mi piace ancora di più lei. Glielo assicuro. Questi sono aspetti di verità che talvolta per pudore nascondiamo, ma io non ne faccio un mistero. Forse sono diventato pedagogista proprio perché la scuola che dovevo seguire non mi valorizzava, non mi aiutava a lavorare con le mani, per cui le mie passioni rispetto agli animali, le mie passioni per la natura venivano negate, e in scienze io avevo un bel 4, per esempio, tanto per intenderci. Eppure qualcosa è successo perché ho avuto la pazienza di perseguire ciò che sentivo più mi affascinasse, ho avuto certo la fortuna di genitori che mi accompagnavano, ma ho avuto anche, direi, la possibilità di scoprire che ciò che a scuola non sapevano insegnarmi poteva essere insegnato per altra via, cioè appunto attraverso un maggiore contatto con le stesse discipline della scuola che trovasse la mediazione di attività più pratiche, di attività relazionali. E qui sono stato fortunato perché alcuni insegnanti riuscirono a capire quali erano le mie vocazioni, appunto. E quindi per lei l'educazione non è finita, anzi lei è diventato uno stratega dell'educazione, perché la insegna come forma di riscatto. E anzi insegna l'educazione, pedagogia a educatori, a futuri specialisti. Sì, e soprattutto io insegno una particolarissima educazione anche ai giovani, quando mi accade attraverso i miei assistenti, ma soprattutto agli adulti, adulti che spesso hanno rinunciato alla scuola e che desiderano a 40-50 anni riavvicinarsi alla loro formazione, ma partendo da dove? Partendo da alcune domande che riguardano la loro storia di vita, che riguardano quindi la ricostruzione anche di quegli scacchi, di quei momenti di fragilità e di debolezza che hanno vissuto a scuola, e che tornano a pensare, che tornano a scrivere. Questo accade alla nostra Libera Università dell'autobiografia di Anghiari, e che hanno la possibilità di iniziarsi talvolta per la prima volta persino alla filosofia, perché riflettono e ragionano sulla loro storia di vita. Ora, questo non accade soltanto con gli adulti, accade anche con i ragazzi. Ci sono delle esperienze importantissime, che so che anche il dottor Pellai segue, di valorizzazione di se stessi a partire dai ragionamenti applicati alle cose più comuni, alle cose più semplici. Ecco, io credo che se la scuola e l'attività dei docenti seguisse quel metodo importantissimo fondato dalla pedagogia attivistica, che si chiama il metodo esperienziale e il metodo induttivo, che consiste nel partire da ciò che sappiamo, nel partire da ciò che riteniamo ci faccia bene e ci aiuti, magari usando poco la penna, magari non sapendo usare l'inglese. È difficile che oggi i ragazzi non sappiano usare internet, però, quindi tra le tre forse una dobbiamo salvare, sì. Probabilmente, no? Ma anche il lavoro su internet è lavoro pratico. Certo. Senta, ma lo chiedo a lei, professor Demetrio, lo chiedo anche ad Alberto Pellai. Bisogna iniziare presto, ma anche, è vero, come diceva il professor Demetrio, non è mai troppo tardi, no? Per recuperare un po' questa dimensione. Ma iniziare proprio come genitori, fin da quando il bambino va a scuola. Io credo che sia importante educarlo a questa complessità, a questo riuscire a crescere e a essere educato, istruito molto nella complessità, tenendo sicuramente conto delle sue doti, dei suoi talenti, incoraggiarlo. Alberto. Sì, io credo che poi sono proprio i nostri figli che ci insegnano a capire, apprezzare, amare i loro talenti. Chiaramente un po' prendiamo di nuovo lezione da una pedagogista importantissima che è Maria Montessori, hanno bisogno di ambienti che siano sufficientemente stimolanti, quindi se noi abbiamo in mente in qualche modo di accompagnarli sulla strada dell'educazione, dobbiamo mettere a loro disposizione ambienti dove possano davvero esprimersi, creare, appassionarsi, dove il tempo non sia tutto occupato, dove, l'abbiamo detto tante volte, ci si possa... Ma questo non deve essere solo un periodo felice e poi ci si ritrova in un ciclo di studi che è completamente differente. Diverso. Perché se no lì si creano veramente delle grandi difficoltà. Professor Demetrio. Io credo che la scuola spesso sia una sorta di educazione alla dissociazione. E alcuni ce la fanno. Cosa intendo dire? Che alcuni riescono a dissociarsi, cioè a sopportare anche le ore infinite, se ci pensiamo, di noia e di fatica scolastica, e allo stesso tempo riescono anche a coltivare, come dicevamo, i loro talenti, le loro passioni, ma non tutti ce la fanno. E la scuola quindi non riesce a valorizzare coloro i quali, anche per i loro tempi psicologici, il bisogno di aspettare, perché l'educazione richiede anche tempo, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, richiede pazienza, non riescono a dissociarsi, cioè non riescono ad imparare a memoria alcune lezioni e contemporaneamente a divertirsi con i trattori, voglio dire. Mm-hmm. E quindi questa difficoltà, che è una difficoltà che può diventare in fondo anche nociva, nel senso che poi la vita ci educa spesso a dissociarci, può essere assecondata soltanto attraverso oggi dei metodi, degli approcci molto e sempre più individualizzati, per cui approcci che non solo mettono al centro le esigenze, i bisogni di sapere che talvolta gli insegnanti non conoscono presenti in certi ragazzi, ma che mettono al centro il problema, ne parlo nel mio libro, di personalizzare il più possibile il rapporto educativo, perché in tempi di complessità si sono moltiplicate le soggettività, si sono moltiplicate le differenze e quindi non possiamo ritenere che un metodo standardizzato, una proposta didattica uguale per tutti oggi possa avere successo, e quindi la scuola è oggi provocata, direi purtroppo manca di molti mezzi, provocata ad assecondare queste esigenze di personalizzazione, così come avviene in tanti altri paesi. Io vorrei, professor Demetrio, presentarla, e così la presentiamo anche ai nostri ascoltatori, Nilda Almasio, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno. Nilda Almasio è direttore didattico del Centro Piazza dei Mestieri di Torino, che è una realtà particolarmente operativa in questa città, che è la mia città. E quindi, dottoressa Almasio, benvenuta. Grazie. In linea abbiamo il professor Duccio Demetrio, il mio coinquilino Alberto Pellai è pronto, perché è stato molto, devo dire, positivamente impressionato dalla Piazza dei Mestieri. Ma ci spieghi lei, che cos'è la Piazza dei Mestieri? La Piazza dei Mestieri, che abbiamo inaugurato 4 anni fa, di fatto è un modello innovativo di fare formazione agli adolescenti, direi di proporre un metodo educativo. Infatti nella Piazza dei Mestieri convivono realtà didattiche e di produzione, però sì. Noi proponiamo ai nostri allievi anche mostre, incontri con ospiti illustri, attività diverse, attività sportive. Pensiamo dovete invitare il professor Demetrio e Alberto Pellai, questo è già un suggerimento, non di parte, sì, effettivamente di parte, ma penso di darvi un buon suggerimento. Con molto piacere, anche perché stavo ascoltando e mi trovo assolutamente d'accordo con le cose che ho sentito finora. Anche noi pensiamo che molti aspetti concorrono all'educazione di una persona, quindi sia importante fare dare a questi ragazzi una compagnia reale e soprattutto proporre un modello bello, un modello di positività. Quindi, dottoressa Almasio, ragazzi, di che ragazzi stiamo parlando? Chi sono i ragazzi che frequentano la Piazza dei Mestieri? Facciamo una sorta di profilo. Dunque, i nostri allievi, che quest'anno sono circa 450, hanno un'età compresa tra i 14 e i 18 anni. Il profilo qual è? Alcuni approdano al nostro centro di formazione professionale dopo aver avuto un insuccesso scolastico, a sì, volte più di uno a dire il vero. In altri casi invece, dopo aver terminato la terza media, fanno proprio una scelta precisa di imparare un mestiere. Quindi arrivano qui con un sogno, che può essere quello di diventare cuochi, barman, di diventare acconciatori, di mettere in pratica un'arte di fare le cose realmente. Infatti mi sembra chiaro che con alcuni ragazzi è importante dare questo tipo di supporto, cioè fare quello che noi facciamo sempre, che è un serio percorso di orientamento iniziale, sì, e poi a seguito di questo percorso, come dire, fare una scelta coerente con questo desiderio che emerge. Quindi molto spesso accade che i ragazzi poi si riapproprino della voglia di studiare, della voglia di imparare, quindi anche il percorso scolastico tradizionale viene rivalutato in questo senso. Professor Demetrio, mi scusi dottoressa Almasio, ma prima di andare alle informazioni del nostro GR, volevo solo chiedere un'anticipazione al professor Demetrio. Che cosa ne pensa di questa Piazza dei Mestieri? Io trovo un'iniziativa splendida. Ogni complesso scolastico dovrebbe avere la sua Piazza dei Mestieri, la sua agora. Non soltanto quindi certi luoghi privilegiati come Torino, ma so che ci sono altre iniziative sparse un po' in tutta Italia, avvicinarsi, ecco, a questo metodo. Lo trovo eccellente proprio perché prima ricordavamo che si tratta in primo luogo di avvicinarsi personalmente ad ogni ragazzo per studiare quali sono le sue disposizioni e disponibilità ad apprendere, perché io parto dal presupposto che l'educazione e l'apprendimento siano una necessità vitale. È una necessità quindi quasi biologica, sicuramente sociobiologica. Il nostro organismo, la nostra psicologia ha bisogno di tendere verso la conoscenza. È chiaro che se queste conoscenze vengono offerte nei modi standardizzati di cui parlavamo prima, forse non arrivano. No. Non possono arrivare. Questa casa non è un albergo. Siamo tornati insieme, stiamo parlando di una realtà molto interessante, la Piazza dei Mestieri. In linea con noi abbiamo Nilde Almasio, che è proprio direttore didattico del Centro Piazza dei Mestieri di Torino. Abbiamo il professor Duccio Demetrio, come sempre Alberto Pellai. Andiamo al nostro consiglio di lettura e poi riprendiamo, Alberto, un po' i fili del nostro discorso. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, oggi potete ricevere a casa il libro E le mamme, chi le aiuta? Bella domanda, Alberto, eh? Per ricevere questo libro a casa dovete essere il primo ascoltatore a inviare una mail all'indirizzo esserebenessere@radio24.it con il titolo, i recapiti e il vostro numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. Alberto, abbiamo già sentito il parere del professor Demetrio sulla Piazza dei Mestieri. Che idea ti sei fatto? Ma mi sono fatto un'idea di una realtà davvero dinamica, educativamente molto avanzata. Tra l'altro, io da buon ricercatore sono andato a sfrucugliare tra le loro percentuali di successo. Hanno una percentuale altissima di ragazzi che, finita la scuola, la Piazza dei Mestieri, vengono integrati molto velocemente nel mondo del lavoro. E a questo proposito vorrei capire, dottoressa Almasio, un ragazzo come Pietro, che è il ragazzo da cui siamo partiti con la lettera del papà che rivelava un doppio fallimento scolastico, arriva da voi probabilmente molto scoraggiato rispetto a cosa è stata la sua istruzione e la sua educazione formale fino a quel momento. Voi come fate a recuperarlo proprio alla passione, all'entusiasmo? Che genere di educatori trova un ragazzo alla Piazza dei Mestieri? dunque, se anche la lettera di Pietro era molto interessante. Io sono dell'idea che se Pietro venisse qui, beh, non so dire che cosa farebbe ovviamente, ma sicuramente sarebbe accolto dai nostri orientatori, che intanto farebbero con lui uno o più colloqui per appunto far emergere le sue potenzialità e i suoi desideri. Mi sembrava chiaro, leggendo la sua, sentendo la sua lettera, che appunto c'è in lui una voglia proprio di fare anche di tipo manuale, una voglia di imparare un mestiere. Sono dell'idea che quello che non funziona sostanzialmente è l'approccio tradizionale, quindi mi sembra disamorato da un approccio tradizionale, da una lezione, come dire, frontale, teorica. Quindi sperimenteremo con lui quello che facciamo con gli altri ragazzi, metodologie didattiche innovative, quindi facendolo accompagnare da professionisti del settore che lui potrebbe scegliere, elaborerebbe con lui la produzione e la realizzazione, che so, di un piatto, di un servizio di acconciatura, di trucco, di un sito web. In questo caso è vincente appunto la collaborazione con il ristorante, il pub, la tipografia della Piazza dei Mestieri, che sono aperti al pubblico, perché lui si troverebbe di fatto in questi laboratori ad avere di fronte la realtà, quindi clienti veri che hanno tempi veri, esigenze reali. E poi faremo, come dicevo prima, con lui tutto quello che esula dalla normale lezione, quindi momenti di compagnia, momenti di aggregazione. Noi facciamo la pausa pranzo e la pausa pranzo i ragazzi fanno il karaoke piuttosto. Dottoressa Almasio, viene voglia, peccato che non abbiamo più l'età, professor Demetrio, perché un saltino alla Piazza dei Mestieri secondo me farebbe bene anche agli adulti. Certo, per imparare tante cose, per esempio a servire a tavola. Questo, Alberto, lì dovresti imparare. Ma io voglio parlare con un ragazzo della Piazza dei Mestieri che è in linea con noi, è un ragazzo maggiorenne, viene dall'Ecuador, è in Italia da 7 anni, è in linea con noi David Fiallos. Ciao David. Ciao, grazie. Senti David, stai facendo un bel lavoro lì alla Piazza dei Mestieri. Tu da grande, sei grande, diventerai un grande cuoco. Speriamo, è il mio sogno. Ci dobbiamo già prenotare, perché poi sai che i cuochi poi in questo momento, poi soprattutto in Italia, i cuochi diventano grandi personalità, mesi e mesi per avere un posto nei ristoranti famosi. Alberto. David, tu sei arrivato alla Piazza dei Mestieri dopo aver frequentato una normale scuola media, impostazione tradizionale. Cosa hai trovato lì alla Piazza dei Mestieri? Che scuola hai trovato e perché ti ha appassionato? Allora, io sono venuto alla Piazza dei Mestieri grazie a un mio amico che me ne ha parlato tanto bene, perché lui ha fatto il parrucchiere, ha preso la qualifica e adesso lui lavora. Mi fa che è una scuola che stai tutto il giorno lì, però stai bene con i professori, con in generale, cioè c'è un buon ambiente. E tu sogni, ti stai preparando per diventare cuoco. Io volevo passare la parola al professor Demetrio, perché David ha sottolineato alcuni aspetti che secondo me sono importanti. Gliel'ha detto un amico, ha detto ci sono i professori, stai lì tutto il giorno, però l'atmosfera è buona. Sono ingredienti importanti questi, tanto dato che stiamo parlando con un cuoco. Beh, indubbiamente sì, si tratta di riuscire a entrare in un clima un po' diverso dal clima della classe, dove anche se si è seguiti talvolta quando si riesce da vicino, lo diceva prima il dottor Pellai, in ogni caso ciò che manca è un clima, è un ambiente che stabilisca questo rapporto di cui prima parlava anche la dottoressa Almasi, un rapporto strettissimo con il fare e con la realtà. Ecco, io credo che David sia rimasto colpito da questa relazione diretta con l'esperienza pratica, con l'esperienza di tutti i giorni, dove ciò che anche importa è che si impara ad autocorreggersi. Mentre nella scuola tu sei corretto dagli altri. In queste esperienze tu impari, e questa è una capacità adulta molto importante, a autoregolarti, a darti continuamente un feedback, perché se sbagli non è uno sbaglio in astratto, è uno sbaglio che ha a che fare con la realtà, e se questa realtà trova poi degli adulti accoglienti che ti indicano meglio anche dove hai sbagliato, ma che non ti rimproverano, non ti danno un 5 in condotta, ma ti mostrano che hai la possibilità da solo di rivedere le tue mosse, le tue strategie, ecco, credo che questo sia il non plus ultra di un'attività autovalutativa, perché ciò che credo David stia anche imparando è una sorta di autodisciplina, e più che disciplina è autodisciplina. Lentamente si costruisce quindi una personalità, si costruisce un progetto di vita, ma all'insegna, ecco, di questa relazione che ha a che vedere con la vita, ecco, ciò che manca nella scuola è lo diciamo da sempre, è una relazione con la vita, e qui invece alla piazza dei mestieri la vita c'è, è proprio l'agorà. Stavo riflettendo sul fatto che la mia bambina Alice sta per finire la scuola dell'infanzia, cioè la scuola materna, e la cosa più bella che ha fatto in questi 3 anni, e tra l'altro che ha proprio trasportato dentro casa, è stato il suo laboratorio di cucina. Hanno cucinato in tutte le maniere, e questa cosa li ha fatti veramente sentire protagonisti, con le mani in pasta, responsabili del loro prodotto finale. E quindi adesso faccio un salto invece di 15 anni, ritorno da David, che lui lo fa non solo come laboratorio, ma lo farà come mestiere, e vorrei capire qual è la giornata tipo di uno studente che va alla piazza dei mestieri, quando si studia, quando si lavora, quando ci si diverte. Sì, ci sono momenti in cui lavori, momenti in cui ridi, scherzi, giochi a calcio, dipende. Ma voi alla mattina entrate in aula e fate lezione? Certo, alle 8:30 fino alle 4:30, poi ci sono giorni specifici dove facciamo solo laboratori, in cucina. E quindi soufflé, anche... soufflé, bechamel, risotti all'onda? Sì. Poi facciamo anche qualche turno al ristorante, in mensa. Senti, ma tu l'hai scoperto dopo che hai parlato con un formatore della Piazza dei Mestieri che ti piaceva fare il cuoco, o in un sogno che avevi nel tuo cassettino di bambino? È una cosa che da piccolo già facevo, cioè mi cucinavo sempre da solo per quello. Senti, prima di passare la parola ad Alberto, dimmi il piatto in cui tu riesci meglio. Tipo nei dolci di più. Bravo, allora guarda, hai già conquistato Alberto. A proposito, questa è una settimana di esami per te, David, hai superato molte diverse prove. Come si arriva, avendo frequentato la piazza dei mestieri, alla prova d'esame, con ansia oppure con la sicurezza che ho in mano le competenze per potercela fare? Si arriva in mano le competenze, però c'è sempre un po' di paura. Gli esami sono sempre gli esami non finiscono mai, professor Demetrio. L'educazione non è finita, ma gli esami non finiscono mai. Purtroppo però la nostra trasmissione termina qui. Io ringrazio molto il professor Demetrio che ci ha davvero accompagnato in questa riflessione insieme ad Alberto Pellai. Grazie professore, spero di vederla presto. Un piacere. Grazie allora a David. Allora un saluto anche alla dottoressa Almasio. Buongiorno. Allora alla prossima. Grazie a tutti, in bocca al lupo a David. Noi ci sentiamo il prossimo sabato, Alberto. D'accordo. Allora appuntamento a sabato. Intanto buona giornata a tutti da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.